Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. D'accordo? No, non ho detto gioia. Understand? Che weekend che ho passato, ho conosciuto delle persone incredibili, Finalmente speriamo che tu abbia fatto delle buone frequentazioni. Zagrebelsky, ma che Zagrebelsky, hai visto tra l'altro Zagrebelsky, il professorone Zagrebelsky che parla di Renzi malissimo, che parla malissimo di Renzi come di una sorta di dittatore. Hai incontrato esponenti della Treccani, poi abbiamo tempo, ti presenterò un personaggio pazzesco. Devo già tremare? Amico mio! Io vorrei abbracciare intanto fortissimo questo pastore di una chiesa americana che si chiama James David Manning, il quale dice che i gay da Starbucks, sai che è la catena americana del caffè, ma non solo, i gay da Starbucks diffondono l'Ebola. Perché non ci sono questi personaggi anche in Italia? Ma meno male che non ci sono. Lasciamoli. Il signor James David Manning. Vieni qua in Italia, fai una serie di conferenze in Italia. Sì, signor Manning, invitalo tu. Fai tu, organizza tu un tour del professore. Bravo, questa del è una buona idea. Organizza tu ti un faccio tour sentire, di mostri ti, mondiali. Ti faccio sentire come parla questo signore. Senti come parla questo signore. Questo predicatore, questo folle. Questo no? pastore. Ma che pastore? Dicono omofobo. Dicono. Aspetta, senti. Starbucks coffee stores are indeed ground zero for spreading Ebola and other diseases because of the clientele of Starbucks. Generally, upscaled sodomites who frequent Starbucks, who sit there with their computers and it's a meeting place. Vi riassumo, ci ho messo 3-4 ore per capire tutto, ve lo dico subito, non voglio fare il figo, eccetera. Però sodomites, cioè le catene di Starbucks americane sono frequentate da sodomiti e gay, i quali diffondono l'Ebola, dice questo signore meraviglioso. Levate Iervino. Sì, però aspetta, nessuno pensa di arrestare questo signore in America. Dice delle cose terribili, dice delle cose terribili, ma nessuno pensa di arrestarlo. Invece in Italia succede che in una scuola di Torino una signora, una professoressa, pare abbia detto che i gay sono malati, e si possono curare. Cioè sono delle persone malate che si possono curare. Una coglionata, sempre se l'ha detto, ha detto questo, avrebbe detto questo. E un casino, la vogliono cacciare, eccetera. Ragazzi, dai, su. Queste persone vanno definite, se hanno detto queste cose, come imbecilli. Cacciarle, la caccia alle streghe. C'è una differenza tra una professoressa di scuola pubblica e un pastore, come lo chiami tu, che nella sua chiesa o in televisione dice delle follie. Insomma, cos'è scuola pubblica questa qua? Comunque in una scuola, in un istituto, a Moncalieri. Torino, provincia di Torino. Sì. Vabbè, torniamo sulla vicenda Cucchi, dai. Perché pronto a nominare Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiga nella difesa versus Pronto a nominare Giovanardi. Cosa? pronto a nominarlo nella difesa. Quale qualora difesa? Giovanardi mi quereli. Ah, tu vuoi fare rappresentare dall'avvocato della famiglia Cucchi? Dall'avvocato Fabio Anselmo, certo, che ha tutta la documentazione delle ingiurie che la famiglia ha subito in questi cinque anni di calvario. La Ilaria Cucchi vuole fare causa al Ministero della Giustizia, questo già l'aveva annunciato sabato, e oggi c'è una novità di cui parleremo tra poco. Adesso io mi auguro che il procuratore generale, che ci è stato così vicino in questa fase dell'appello, ricorra in Cassazione. Nel frattempo noi faremo causa al Ministero di Giustizia perché ha preso mio fratello sano e ce l'ha restituito morto e in queste condizioni. Poi ci sono le parole del procuratore capo di Roma Pignatone, il quale ha detto che se ci saranno fatti nuovi riaprirà l'inchiesta, e soprattutto ha detto che quando uno viene affidato nelle mani dello Stato poi non può uscire fuori morto. Questo bravo, ha detto. Pignatone. Lasciami capire, Parenzo, tu dai per scontato, come dice la sorella, la famiglia Cucchi, che Cucchi sia morto per le botte, per le percosse? No, questo non posso. Beh, sicuramente qualcuno l'ha menato, è sicuro. Io do per scontato quello che dice il procuratore capo di Roma, di cui mi fido, che dice che vuole fare una rilettura complessiva degli atti e poi va sul punto. Cioè dice: non è possibile che un cittadino dello Stato italiano venga preso vivo e venga poi. Ma ci vogliono le prove, però. Ci vogliono le prove per incolpare la gente, cioè il procuratore capo di Roma. Questo è il punto vero di tutta la vicenda. Allora, Moncler sembra nei guai, azienda rilevata da italiani, da un fondo in realtà in cui c'è un italiano che domina questo fondo, perché Report ha scoperto alcune cose, la trasmissione della Gabanelli, soprattutto una ci incuriosisce, al di là della questione del prezzo. Per me comprare un piumino a 1200 euro, 800, 900 euro, una coglionata di per sì, non ho mai comprato un piumino a quei prezzi. Beh, tu perché sei tirchio, ma no, se uno a parte che non se lo può tirchio, permettere può comprare quel che vuole, certo, no? A parte primo che non sono tirchio, ma compro non delle cose. Pauperista adesso, no, improvvisamente. No, su. Io dico, io non compro un piumino a 1200 euro, non faccio il pauperista. Trovo questo legittimo che un'azienda possa spendere 30 euro, 40 euro per un piumino e poi rivenderlo a 1200, possa acquistarlo a 30 e rivenderlo a 1200. Beh, chi se li compra, chi se li compra a 1200 per me è un coglione, però va benissimo, per carità. Il problema principale è il maltrattamento degli animali, cioè le oche, a parte pare che i piumini non siano proprio fatti solo di piuma d'oca, ma anche di altro, un misto, eccetera. Ma poi soprattutto gli animali vengono feriti, insomma, si violano tutte le regole, sempre da Report, Spiumate vive per interminabili minuti, testa e zampe immobilizzate per sbrigare velocemente la pratica. Ci sono 10.000 oche da spennare in soli 4 giorni. La carne finisce sempre contusa, spesso lacerata e sommariamente disinfettata. Non è per compassione che si usa il disinfettante, ma per limitare le perdite degli animali feriti. Animali feriti, mamma mia, un casino già con questi animalisti scatenati. Allora, abbiamo con noi, primo ospite della serata, caro Parenzo, Donato Capece del SAP, che è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, cioè il sindacato principale degli agenti di polizia penitenziaria che sono stati appena da poco assolti dalla vicenda Cucchi. Capece, buonasera. Sì, buonasera a voi tutti e tutti i radioascoltatori. Allora, capisce? Ha perso voi un'occasione per aspetta, star zitto, aspetta, ma andiamo avanti. Stai calmo. Ma andiamo avanti. Stai andiamo calmo. Avanti. Ha diritto di parlare, capisce, oppure no? Ci ha diritto di parlare, no? Ci il sindacalista. Fa il sindacalista, figliamoci. Allora, capisce? I sindacalisti della Fiom possono parlare, invece capisce, brutto, sporco e cattivo, non no, può parlare. No, non allora è brutto, né sporco e cattivo. Può parlare, ma... E vediamo che cosa dice. Adesso allora, vediamo cosa capisce, dice. Capisce? Ha denunciato oggi Ilaria Cucchi. Questa è la novità. Cioè, perché l'avete denunciato, avete minacciato di denunciare la Cucchi, signor Capece? Beh, ritengo che le parole che sono state così più volte perpetrate nei confronti della polizia penitenziaria siano offensive e soprattutto ledono l'immagine di questo corpo di polizia che con abnegazione e sacrificio svolge quotidianamente il loro lavoro nelle carceri di questo però paese. Però scusi, capisce, addirittura la denuncia per delle parole, cioè è una beffa. Qual è istigazione all'odio? Quale sarebbe il reato che ha commesso Ilaria Cucchi? Istigazione all'odio, cioè voi vi sentite, cioè avete paura a girare per le città, avete paura che qualcuno vi riconosca, di violenze, che cosa? Beh, sicuramente l'opinione pubblica non avrà un ottimo giudizio sull'operato della polizia penitenziaria, che le assicuro in maniera umile e silenziosa svolge il proprio lavoro. salvando la vita a decine e decine dei detenuti che tutti i giorni tentano di... Vabbè, questo lo sa. Ah, lei dice, e non sono... è demagogia, e non è demagogia. Però scusi un attimo, realtà. Però perché volete portare in tribunale Ilaria Cucchi? Cioè, perché secondo lei diffonde parole di odio? A mio avviso Ilaria Cucchi doveva fare un discorso preventivo sulla questione fratello. Il fratello è stato abbandonato dalla famiglia. Se la Ilaria Cucchi e la sua famiglia avesse seguito più da vicino sì. Stefano, probabilmente l'avrebbe salvato. Ah, lei dice che era una cattiva strada intrapresa, cioè quello dello spaccio. C'è colpa della famiglia. Sì, sì, colpa della famiglia. Allora, dicendo, lei sta chiaro. Dicendo che la famiglia doveva seguire meglio Stefano Cucchi e recuperarlo, perché aveva bisogno, anziché di essere abbandonato al suo destino, aveva bisogno di essere seguito dai loro familiari. Sta a vedere che è morto Stefano per Cucchi. Colpa della famiglia, dice. No, preciso, Stefano Cucchi. Capece. Quando è stato incapace detenuto di al Pertini, Stefano Cucchi, quando è stato detenuto al Pertini, no, ero io responsabile di quel settore, ha sempre sostenuto di non voler avere niente a che fare con la propria famiglia, quindi aveva preso le distanze parecchio. Ora vi domando, no, però scusi, Sape, questa qua sì, Sape, è il sindacato di polizia, capisci? E le dico, come mai oggi la signora Cucchi si interessa tanto del fratello, che è importante, no. Sicuramente. Scusi, capisce, lei però sta facendo delle accuse gravissime, scusi, capisce, lei sta dicendo che perché dice di essere stato il responsabile, adesso questo non me lo ricordavo, responsabile di quell'area lì, di quelle persone lì che si occupavano dell'area protetta del Pertini. Dell'area protetta del Pertini, sta dicendo che Stefano Cucchi disse che non voleva niente avere a che fare, esatto, con la famiglia. Esatto. E perché? A chi lo disse questa cosa? Agli agenti di servizio che erano alla Pertini, al reparto del Pertini. Cioè gli stessi agenti che poi sono stati accusati? Gli agenti che non sono stati accusati, nessuno di questi ragazzi, perché i ragazzi del Pertini sono ragazzi per bene. No, vabbè, d'accordo, questo è un altro discorso. Allora, capisce. Dal Pertini, che sono due momenti diversi. Sì, no, a chi lo avrebbe detto questa cosa qua? Stefano Cucchi, a chi avrebbe detto che non gliene fregava niente della sua famiglia? Al personale di servizio all'ospedale Sandro Pertini. Che sono diversi da quelli che poi lo avrebbero, tesi poi smentite dal processo, lo avrebbero picchiato, giusto? Esatto, perché sono due luoghi diversi, un conto sulle camere di sicurezza, un conto all'ospedale. Dunque, secondo lei la responsabilità principale della morte di Stefano Cucchi è la famiglia che se ne doveva occupare di più? Probabilmente se avessero fatto più prevenzione e seguivano il figlio, anziché, come sempre succede, abbandonato a se stesso, forse non avrebbe subito tutti quei problemi, quei danni che ha subito, perché a me nulla toglie della mente che i problemi, che le lesioni, le fratture, che lo stesso professor Damonte, il perito che ha fatto le autopsie, ha dichiarato che erano sicuramente pregressi al momento dell'arresto. Cioè lei dice che le fratture, le botte non ci sono state, cioè se ci sono state non sono state date durante il periodo... Quelle rinvenute dall'esperto sostengono che sono pregressi al fatto, sono fratture vecchie. Dunque, secondo lei è stato picchiato, ma prima? Probabilmente sì. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Allora vi faccio ascoltare quello che è venuto fuori dalla trasmissione Gazebo di Zoro su Rai 3 a proposito della vicenda ancora della FIOM, delle manifestazioni di Roma, chi ha picchiato chi, i poliziotti, i manifestanti, eccetera eccetera, dopo un video diffuso da Libero Quotidiano in cui si vedevano gli operai oppure gruppi di operai avanzare verso la polizia e la polizia poi reagire. C'è un altro video in cui c'è una voce, la voce è quella di un poliziotto, di un funzionario di polizia, il quale ordina la carica, adesso non è che ordina la carica di balaclava ovviamente, cioè ordina la carica, dice caricate. Ora io mi domando, tutti scandalizzati, no? Tutti a scandalizzarsi di questa roba qui, oddio, è il poliziotto che ha ordinato la carica, ma i poliziotti, ma che cosa ci stanno a fare lì? Cioè, a i poliziotti, tutelare l'ordine pubblico, ma che ruolo a gestire la piazza, sì, ma chi è che a garantire la polizia l'ordine pubblico? Ogni tanto carica, succede, perché non è che caricano gli altri. La polizia ogni tanto carica. Ma non era un gruppo di terroristi con la testa coperta. In generale, tutti block. A scandalizzarsi, dice un poliziotto ha ordinato di caricare. Ma te credo, chi lo deve dire caricare? Perché un poliziotto? Perché ha freddo, questo è il fatto. Sentite. Il corteo avanza, lei si spaventa, guardate lui, con giubbotto di pelle. Caricate, è giù scandalo. Vabbè, abbiamo con noi Donato Capece. Sappe... No, è un po' in Capece l'amico Donato. Aspetta, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Allora, secondo la cosa me... che voglio capire ancora da Capece è questa. Ma ci sono dei vari VIP in queste ore, Celentano, Giovanotti, che fanno appelli a favore della famiglia Cucchi. Lei che dice? Ma io ritengo che il cantante, il cantautore molto apprezzato da parte di tutti noi, faccia il cantante, e probabilmente ha perso una grande occasione, quella di prima di parlare, di tutti? Riflettere Celentano, Giovanotti, perché guarda caso gli interventi di Celentano riguardano l'ex VIP Corona, detenuto per fatti per cui la sentenza è passata in giudicato, sì, e poi il caso Cucchi. Ora vi domando, perché interessarsi del caso Corona e del caso Cucchi quando sappiamo le nostre carceri 54.000 detenuti, molti di questi poveri cristi che probabilmente stanno in carcere a scontare forse ingiustamente una pena. Lei dice si occupano solamente di quelli che arrivano all'attenzione della cronaca. Sì, e poi devo dire anche un altro principio fondamentale, le sentenze vanno tutte rispettate. Ma la secondo lei la penitenziaria per ben due volte è stata assolta in due giudizi, quindi è inutile. Ma secondo lei, no, ma ho capito perfettamente. No, io la cosa che voglio capire, scusami, secondo lei la famiglia Cucchi, in particolare la sorella, ha qualche secondo fine? Cioè, qual è l'obiettivo al di là della, ovviamente, della ricerca della verità? C'è qualcosa dietro? Ma non lo so, sicuramente è legato dall'affetto verso il fratello, sicuramente. Sì. Noi rispettiamo questo suo sentimento, rispettiamo la vita umana di questa persona, però da qui a chiedere a tutti i costi che un capro espiatorio paghi senza nessuna responsabilità, noi lo rigettiamo e non lo accettiamo. Ma umanamente, ma le sembrava, ma scusi Incapece, ma le sembrava il caso a lei in questo momento di portare in giudizio la sorella di un uomo che è entrato vivo nelle celle del nostro Stato e ne è uscito morto? Capisco che lei fa il sindacalista del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ma non fa un bel servizio alla sua rappresentanza in questo caso? Invito la Ilaria Cucchi a rispettare le sentenze dei magistrati, perché per ben due giudizi la polizia penitenziaria è stata completamente e sempre assolta. Dunque, secondo lei, se c'è qualcuno che non rispetta la giustizia, è la famiglia Cucchi? No, probabilmente la famiglia Cucchi cercava a tutti i costi qualcuno che doveva essere condannato, ma se non ci sono colpe, non ci sono responsabilità. No, ci sono colpe. È morto dal freddo. Secondo lei come è morto? È morto dal freddo, Cucchi. Come Gesù. La Cucchi faceva il PM e l'avvocato Anselmo faceva il giudice, probabilmente tutti i medici e la polizia penitenziaria sarebbero stati condannati, ma per fortuna ci sono i magistrati e noi abbiamo sempre apprezzato il loro lavoro, dedicato lavoro. Senta, l'avvocato ha detto che c'è stata grande omertà, cioè sembrava un processo mafioso, per cui nessuno voleva parlare. Testimonianze che mancavano, certo. L'avvocato sa bene che tutte queste questioni si risolvono affrontandoli in giudizio, dove sono state esperite tutte le indagini, sono stati ascoltati tutti i testi, sia del PM sia degli avvocati. Ma allora il capo della Procura di Roma che dice? Il capo Pignatone. Il capo della Procura di Roma dice che si possono riaprire le indagini in presenza di fatti nuovi. Lo dice il codice penale, per cui dice una cosa ovvia. Dice anche di più. È ovvio. Dice di più. Beh, però dice anche Capece, dice di più Pignatone. Dice che non è possibile che un cittadino italiano entra vivo e esce morto. Questo dice il procuratore capo. A questo capo. Come rispondete voi? Come rispondete a questo? Seppe, Capece, Incapece, mi pare. Dai, perché, forza, scusa, non fare scusami, lo sai, stronzo, però. Dai. No, ho allora, capito, Capece, però c'è un limite alle cose che vengono dette. No, c'è un limite. Io ritengo che ci sono state due sentenze dei magistrati che hanno assolto in prima. Ma cosa risponde a Pignatone? Ma questi agenti, agenti di polizia penitenziaria, ma, io sono. Non temiamo niente. I magistrati, faccia pure il suo dovere, riapra pure le indagini. La polizia penitenziaria sicuramente è al di sopra di ogni sospetto, non ha fatto assolutamente niente. Capisce, ma i vostri agenti temono qualcosa? Sono... No, per il processo, per questa. Se voi denunciate la Cucchi per istigazione all'odio, significa che sono minacciati di morte, magari, o no? No, questo no, sicuramente no. Ripeto, solo una questione di. Cioè, Ilaria Cucchi, con le sue parole, vi mette in pericolo? No, Ilaria Cucchi, con le sue parole in libertà, crea un documento all'immagine di questo corpo di polizia. Ma quel documento ha avuto. È morto il fratello! Ma di che parla? Capece, su! Allora. Namo? Che tempi! Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Vi voglio benissimo, viva la topa. Io però quando sento certe notizie non ci voglio credere, dai. Questi animalisti che denunciano un gioco erotico nel Bresciano tra due persone, un mastino napoletano, cioè un cane, ma una cosa orribile, una cosa terribile. Ti assicuro, c'è stata anche una denuncia di maltrattamento per animali. In realtà andrebbero denunciati non per maltrattamento degli animali, andrebbero denunciati per, no, per, verrebbero portati via con l'ambulanza, dai, il sesso con gli animali. Ma come si fa? Ma dai. Cosa non ho, mi è sfuggita, un tale Lorenzo Croce, notizia. Un tale Lorenzo Croce dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, sì, ha denunciato per maltrattamento degli animali delle persone che pare, sembra, poi là, sì, sai, se sembra facessero, sì, sesso con un cane. Ma in, dai, che senso? Chi erano? Maschi, ma non so, femmine, due, cos'erano? Non lo so, non è importante, non è importante. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così noi fa cagare. Adesso questo sinceramente, anche noi, sinceramente, siamo d'accordo anche a questa roba. Sinceramente, eh, anche a noi, eh. Sinceramente, ragione, anche a noi. Buon vecchio Adinolfi. Anch'io che sono, come dire, no? Sono molto libertino, molto aperto, eccetera, però insomma. Fino a qua non ti spingi, non diciamo. Mi spingo, ecco, ecco, non mi spingo, no, non mi spingo. No, per carità, poi. No, poi sai. No, ma si può fare qualunque cosa, figuriamoci. Sì, però dai. A tutto c'è un limite, a tutto c'è un limite. C'è ancora il Capece, il signor Capece? No, il signor Capece, no, perché poi di nuovo Capece, che deve dire, no, Capece? Oltre a dire, adesso poi te ne procuro un altro, ma oltre a dire il capo dei sindacati della polizia penitenziaria, no? Il capo dei sindacati della polizia penitenziaria. Ecco, non si sentiva il bisogno dell'intervento corporativo del capo dei sindacati della polizia penitenziaria? Ma perché tutti, secondo te, tutti possono parlare, perché? Tranne i poliziotti? Ma perché? Tutti certo possono parlare, dice tranne che non i poliziotti? Possono parlare, e certo, allora? Che possono parlare. Lasciami, ma arrivare parlare, a denunziare, no, la sorella di Cucchi, ma scusa, la sorella, ma di perdere, Cucchi, ma sono denunce virtuali, ma sono denunce, no, virtuali, virtuali un cavolo, ma, sì, ma virtuali, ma un cavolo, ma non sarà una denuncia, ma questi vera, sono atti che rimangono indelebili nella memoria di queste persone. Ma che fiducia può avere questa, scusa, donna, però, nello, sì, Stato, però, scusami, ma scusami, dopo due sentenze questo signore del SAP, io non condivido le sue parole quando dice che la famiglia poteva curarlo meglio, dunque sostanzialmente, ma è un gesto eclatante, ma veramente di una volgarità, no, inaudita, ma non lascia volgarità, perdere la volgarità, una gravità inaudita. Allora, il signore della polizia penitenziaria dice in sostanza che cosa? Dopo, ma due, sai qual è l'errore? No, aspetta, quello, no, mi fai parlare, ma sei caldissimo su questa cosa. Ma via di testa, perché l'errore, appunto, è quello di identificare la polizia penitenziaria in quanto tale e non le persone singole che ma possono queste persone aver commesso sono qualcosa. State assolte, e invece la sorella, e allora, di allora appunto che c'entra ma la polizia, sorella sindacato? Di Cucchi dice in sostanza che dopo due giudizi le botte furono letali e che Cucchi, Stefano Cucchi, è morto per le botte subite. Ma non, dunque, è morto dal freddo, questo è sicuro. Aspetta, dunque attribuisce la responsabilità di questa morte agli agenti di polizia penitenziaria. Il capo il sindacalista, cioè il capo sindacale di questi signori qua, dice: attenzione, ci sono due giudizi. Cioè, è un'istigazione all'odio, dice ma questo. Ma quale istigazione per me all'odio? Non esiste l'istigazione all'odio. È incapace, altro che. Dai. A te ti piacciono i sindacati, tranne quelli che non ti convengono. Ma no! Cioè, ma ti piacciono i sindacati? Ma non c'è convenienza o inconvenienza, c'è un un fatto: uno è entrato vivo, morto in carcere. Questo... ci sono delle sentenze che io rispetto. Mi appello a Pignatone, però mi pare abbia detto che il procuratore capo delle cose diverse. No, in non queste ha detto ore, nessuna cosa diversa. Che se, è ci pronto a riaprire, nuovi, se ci sono elementi nuovi, come tutte le cose. E che non è possibile che un cittadino, siccome Pignatone rappresenta lo Stato, valutazioni che no, tutti possono un cazzo, fare. Perché siccome rappresenta lo Stato, vabbè, Pignatone. Fammi sentire i titoli del TG3, dai. Sì. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi a Brescia: c'è un disegno per dividere il mondo del lavoro, ma non esiste una doppia Italia. Tensioni in piazza. La CGIL è lui che punta a spaccare. Governo pronto a porre la fiducia sul Jobs Act se necessario. Banca Italia promuove la manovra, ma avverte: col TFR in busta paga pensioni più povere. Tutto da rifare per la Consulta, si ritira la professoressa Sandulli criticata da Forza Italia. Boldrini: inutile convocare le Camere se non c'è intesa fra i partiti. Inchiesta P3, rinviati a giudizio Denis Verdini per corruzione e Nicola Cosentino per diffamazione e violenza privata, stralciata la posizione di Dell'Utri. La famiglia Cucchi incontra il procuratore capo di Roma Pignatone, confermato l'impegno a riaprire le indagini, il sindacato di polizia SAP e querela la sorella Ilaria. È morta come aveva deciso, con l'eutanasia, Britney, la ragazza americana che non voleva aspettare di essere distrutta dal cancro al cervello. Domani, in anteprima a Roma, in 100 paesi nel mondo, torneranno I Prati, il film di Ermanno Olmi che racconta l'immane tragedia della Prima Guerra Mondiale. Allora ragazzi, però c'è un'aggiunta al discorso che abbiamo fatto prima, eh. Il procuratore capo di Roma Pignatone, dopo quello che ha detto la Cucchi, insomma, qualche minuto fa ha detto di avere fiducia nei PM che hanno condotto le indagini, che invece sono dei mezzi criminali, secondo la Cucchi. Dai PM un ottimo lavoro, dai suoi PM. La Cucchi ha detto: forse abbiamo perso solo tempo. Qui c'è un obiettivo preciso: dire che i PM che hanno fatto le indagini sono stati come dire, omertosi e hanno fatto le indagini male, e che Stefano Cucchi è morto di botte. Non i PM, i periti, no, c'è i tutta, PM, i PM. Cioè, come tu sai, sì, ho capito, i PM si avvalgono, diciamo, del lavoro dei periti. Io sto dicendo, no? L'obiettivo della famiglia Cucchi, no, la famiglia Cucchi è sapere chi ha ucciso, è sapere chi ha ucciso Stefano. Questo è l'obiettivo. Vabbè, tanto no, ma no, Mauro, ma Mauro da Verona, giornalisticamente tanto, il fatto tanto, è questo. Tanto tu non, ma adesso non è dici sposare sempre le stesse cose. Ma no, ma c'è uno, ma tu Pignatone, non vuoi sapere chi l'ha ucciso? Pignatone ha detto, Pignatone ha detto di avere fiducia nei PM. Ilaria Cucchi dice che i PM hanno fatto un cattivo lavoro. È uscita da quell'ufficio. Pignatone ha fatto quella dichiarazione. Altra dichiarazione di Ilaria Cucchi, sai qual è stata? Forse abbiamo perso tempo. Cioè c'è un pregiudizio. C'è un pregiudizio, punto. Mauro da Verona, pregiudizio della famiglia Cucchi contro poliziotti e PM. Mauro da Verona: devono essere colpevoli a tutti i costi. Mauro da Verona, dai, diciamo la verità. Mauro da Verona, è così. Bravo Crociani. Allora, io volevo chiedere a Parenzo perché tutte le sentenze devono essere rispettate, però questa ti dà un po' fastidio. Ma chi ha detto che io non rispetto la sentenza? Ho mai pronunciato la parola? Io me la sono presa con, nell'ordine, Giovanardi. Me la sono presa con quelli che hanno strumentalizzano. In altri casi, scusami. C'è una sentenza, Ma io qua rispetto le sentenze, non è che metto in discussione quel che è uscito dai processi. Non la discute nessuno. Io sono padre di due figlie adolescenti, e se dovesse accadere a me, non so, forse sarei, non sarei così forte come la sorella Cucchi. Bravo. Però accomunare una sentenza, la seconda, quindi in appello, due volte assolti, a una tragedia umana non ha senso. Le sentenze si rispettano, e si rispettano tutte, che piacciono o no, così come è stata rispettata quella, anche se io non sono un fan di Berlusconi, come è stata rispettata quell'altra di quell'altro ragazzo. Sfonda una porta aperta, qui c'è un altro un'altra però. Cosa, ma io non ho messo in discussione nulla di tutto questo, me la sono presa allora nell'ordine con Giovanardi. C'è questo clamore perché a fronte di un processo che comunque mostra dei buchi pazzeschi dal punto di vista delle perizie detto? Che sono ma state quando fatte mai? Ma non è vero, ma chi lo dice? Ma chi lo sostiene? Perché lo sostiene la famiglia Cucchi per mancanza di prove. Lo sostiene l'avvocato della famiglia Cucchi, la famiglia Cucchi. Ma non solo l'avvocato della famiglia Cucchi, rimane il caso del chi ha ucciso Cucchi. Va bene, questo Mauro da Treviso, un caso che lo Stato dovrebbe essere interessato a risolvere. Vai, a tutti. Dimmi. Io volevo intervenire più sulla forma che sul contenuto, perché sì, volevo dire a Parenzo che quando interviene così e prende solo per, non ha avuto nessuna voce in capitolo e ha solo preso per in giro il cognome della persona, era ridicolo, è come se io capeccio, ce l'ho con lei. David, no, quella David è Patrucci. Ironia che ci sta, dai, su adesso non esageriamo, il capeccio, a lei il ha dato fastidio il fatto che prendesse per il culo capeccio per il cognome. Ma no, perché la ripetuta diceva incapace, volte, incapace di intendere l'altro di volere. Vabbè, lo pigliava per il culo. Dai, su questo, ragazzi, non si può prendere per il culo le persone. Siamo veramente alla follia, Mauro. Noi prendiamo per il culo anche per il cognome. Non è che l'ha preso in giro per una sua, perché era basso, oppure c'aveva i baffi, o perché c'aveva il pisello piccolo. Dai, su, questo, Elena Campobasso, dai, Elena. Questo, vai. Elena. Buonasera, mi sente? Dai. Allora, io sono un medico, ho lavorato nei carceri. Sì. Ho lavorato parecchi anni fa, perché adesso sono una persona di 60 anni. Sì. E confermo che può essere accaduto quello che sostiene la sorella di Stefano Cucchi, cioè che possa essere stato malmenato e che ci sia un atteggiamento omertoso per una serie di motivi. Benissimo, lei, diciamo, in linea teorica, lei dice che avendo lavorato nelle carceri è possibile questo, perché ha visto delle cose? Sì, certo. E perché non le ha denunciate? Questo lo dice lei, io ho denunciato. La denuncia del medico è quello che scrive sul registro, perché c'è un registro delle visite. Cioè, lei da medico di carceri, quali carceri? Ho lavorato nel carcere di Roma, sì, e ho la Rebibbia, e ho lavorato successivamente a Napoli. A Napoli. Lei ha visto delle persone pestate da chi? Persone che sono dagli agenti di custodia. Certamente, sì, tenga conto che sono dei carceri pesanti, sì, certo, cioè dei carceri dove mantenere l'ordine è più complesso, sì, e soggetti deboli quali possono essere persone come Stefano Cucchi sono molto più difficili da arginare, perché a volte danno fastidio. Ma lei conosce qualcuno dei medici che erano? No, assolutamente. Assolutamente. Comunque lei dice, è possibile quello che dice Ilaria Cucchi, perché io ho lavorato come medico in alcune carceri italiane, Roma e Napoli, e ho visto violenze commesse da agenti della polizia penitenziaria nei confronti. Certo. Scusi, le sue denunce a cosa hanno portato dopo? A nulla. A nulla. Perché lei ha denunciato cose che ha visto, cioè persone percosse, certo, o persone che hanno subito. Cose che ho visto e che ho potuto constatare con la visita. Però le tenga conto che all'interno del carcere non c'è solo una violenza fisica, ma c'è anche una violenza verbale. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Certo. Quello è un altro discorso. Qui stiamo parlando di violenze fisiche che avrebbero portato alla morte di una persona, secondo una famiglia. Lei ci dice che non è così assurdo che la polizia penitenziaria picchi le persone, così? Spesso ha anche paura a denunciare certe cose. Questo confermerebbe quello che diceva l'avvocato Anselmo, dell'ambiente omertoso in cui è difficile. Questo è il punto, in cui è difficile che cane denunzi cane. Sì, ma io non, dico una cosa, non dico che sono cani, tutt'altro. Dico che un simile non denuncia un suo simile, no, poi dicono hai dato del cane a qualcuno. Io capisco, no, sia Elena che Parenzo. Aggiungo un'altra cosa: possibile mai che con tutta la stampa italiana, forse anche il Papa, dalla parte negli ultimi anni della famiglia Cucchi? Ma non è dalla parte. Aspetta, oddio, mi fai fare il conduttore radiofonico e non l'analista? Fammi fare il conduttore radiofonico, per favore. Oh. E dalla parte della famiglia Cucchi, e invece dall'altra parte ci sono tre sfigati poliziotti della polizia penitenziaria. Tre sfigati, ma il corpo. Non sono tanto sfigati. Beh, oddio, il corpo, lasciamo perdere. Perché loro fanno. Tre contro tutta sfigati. L'Italia e tutti a coprire, questi qua coperti. Lei io non ci. Stato in un carcere? No, ma io per carità, io sono aperto. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Con un proiettore, nel Duomo di Messina, hanno proiettato delle minchie finte. Sempre con noi Elena da Campobasso, medico che ha lavorato in diverse carceri italiane, e che ci sta dicendo che è assolutamente possibile che una persona venga picchiata da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Lei, cara Elena, sta dicendo delle cose molto gravi, cioè sta dicendo che in diverse carceri italiane. È quello che io ho visto, guardi che io stessa ho subito, tra virgolette, un atto di violenza. Cioè? Ed è certificato, non è che sto dicendo una sciocchezza. No, perché atto di violenza di che tipo, scusi? Nel senso che dal momento io avevo bisogno di lavorare, avevo bisogno di soldi, quindi ho accettato di lavorare in carcere. Capisco perfettamente che non deve essere un hotel a 5 stelle, che è un luogo di rieducazione. Però in quel momento io ero l'unica donna all'interno di una struttura carceraria esclusivamente maschile, sia intesa come detenuti, sia intesa come agente di custodia. Dunque? E loro volevano a tutti i costi che io andassi via, perché diciamo che era una figura scomoda per una serie di motivazioni. Allora hanno tentato di spaventarmi. Sa qual è stato il sistema per cui mi hanno spaventata? Io non conoscevo ancora tutte le regole. Una notte sono stata chiamata dicendomi che un detenuto AIDS positivo si era ferito. Mi hanno messa all'interno della cella. Di norma, quando tu fai la visita in cella, devo entrare prima la squadretta degli agenti di custodia, escono gli altri detenuti, resta il detenuto malato ed entra quindi il medico. Invece loro hanno pensato bene di fare entrare me con i detenuti all'interno della cella. Hanno chiuso il cancello, hanno chiuso il blindato, e io sono rimasta sola con i detenuti, che per carità mi hanno rispettata in tutti i sensi. Là non devi essere Monica Bellucci, chiariamo questo. Beh, no, certo. Però scusi un attimo, cara Elena, ma le sue denunce poi sulle botte che lei ha visto? Non hanno portato a niente. Quante persone ha visto picchiare nelle carceri? Io ho visto una squadretta di donne che hanno picchiato una ragazza. Il problema, sa qual è, signor Cruciani? Qual è? Che in carcere la gente di custodia fa una vita peggio del detenuto. Adesso le cose sono un po' migliorate perché il... Ma dove ha visto custodia... picchiare una ragazza? In che carcere? Ma questo non lo posso dire. Ma l'ha denunciato, però dice che l'ha denunciato e poi non hanno portato a nulla queste cose. E poi al di là di questo episodio, chi è che mi sta chiamando? Ma non capisco perché mi chiama durante la diretta. Perché tiri i telefoni accesi? Lo faccio apposta perché qualcuno che mi cerca si deve sentire assolutamente. Io metto la sua. Elena, grazie. Grazie della tua testimonianza. Buonasera. Grazie. Saluti, cara. Danilo, Reggio Emilia. Eccolo qui, pronto. Dimmi. Non la sento però, purtroppo. Io la sento molto bene invece, dai, Danilo. Non sento niente, mi spiace, Cruciani, volevo intervenire per... Vai, per Danilo, vai. Che ho sentito prima, sì. Un saluto a tutti, cioè l'orrore di questo Capece. Sì. Ma cos'è, uno psicologo? È un psicologo Capece? Perché no. quando ha detto cosa? Si permette di dare alla famiglia Cucchi, ma lui che ruolo ha? È un secondino, va a terza media, non fa il secondino forse perché non sa cos'altro. Questo fare. Non c'entra. Questa cosa può capitare a tutti, eh. Lei sta dicendo, Danilo, sta dicendo che il sindacalista che abbiamo ascoltato prima. Sento malissimo, mi dispiace. Va bene, grazie. Qualcuno mi dice come fai a difendere la polizia e le guardie carcerarie oppure i medici. Io non difendo nessuno, a me mi stanno sulle palle, odio queste cose collettive. Allora Cucchi, tutti scandalizzati, quando ci sono le sentenze che riguardano i politici condannati, tutti i due, quando si tratta di assoluzioni... Tutti quanti indignati. Io questo non sopporto, capito? Questo, i due pesi e due, le due pesi e due misure, non sopporto questa roba qua. Ma vanno viste nel merito le cose. Nel merito. Cioè di un cittadino, anche Pignatone, procuratore, capo, te lo ha detto. Non è ammissibile che un cittadino entri sano in una struttura dello Stato e esca orizzontale. Va bene, è più brutale così. Bravo, un cacchio. È con noi Carlo Freccero, buonasera. Buonasera ragazzi. Come andiamo? Meno male. Molto bene. Molto Bravo. Bene, come la vicenda Cucchi ti ha colpito? Mi ha colpito già allora, non adesso. È una cosa orribile, cioè, mi è capitato, sai, noi siamo vecchi, ne abbiamo viste tante di cose, appunto. Quindi gli anni 70, gli anni 70, quindi. Beh, però è un fatto veramente strano tutto quanto, perché hanno dichiarato all'inizio albanese, tutto lì il problema, vi ricordate? Come questa qua è la cosa oscena di tutto quanto. Se fosse che è entrato subito, e gli agenti hanno scritto albanese perché c'era un foglio precompilato. E da questo albanese è iniziata la via Crucis e la morte per lui. Una cosa oscena, però andiamo avanti. Andiamo avanti. Ci sono due sentenze. Allora, uno o pensa che c'è una grande omertà, o pensa che c'è una grande omertà. Allora, che i PM sono incapaci a fare le indagini, perché altrimenti non si capisce. Possibile mai che tre sfigati agenti di polizia penitenziaria, io dico sfigati non per criminalizzare, dico sfigati, abbiano tutte queste protezioni in alto? Possibile mai che tutti si proteggano, mentre tutta la stampa, tutto il mondo, addirittura forse fra poco ci sarà il Papa che farà una dichiarazione a favore della famiglia Cucchi? Sono tutti dalla parte della famiglia Cucchi e ci sono questi tre sfigati agenti della polizia penitenziaria che riescono a muovere tutti i burattini a loro favore. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Di cosa bisogna essere anche oggettivi? Carlo, aiutami tu, no, su questo non sei d'accordo con me, però. No, non sono d'accordo, ma no, però il problema è che, dai, ti ripeto, tutto quanto è iniziato quando per una, diciamo, negligenza è stato messo albanese, per cui l'albanese era considerato niente, e lì è iniziato tutto quanto. Guarda, è una cosa molto scandalosa, ti prego, veramente non, è inutile qui fare delle polemiche, fare delle parti in commedia, dai, su. E d'altra parte è vero che quando poi è difficilissimo trovare le cause oggettive, chi l'ha ucciso realmente, sono tantissimi chi è, che ognuno di questi hanno messo in qualche modo una piccola colpa, e tante piccole colpe fanno un delitto, lo sai. Dai, adesso però è inutile fare ancora questa polemica, dai, Cucchi è stata una vergogna, però dai. Ma chi fa polemica? Sai, 4-5 giorni che se ne parla continuamente. Vabbè, per cui... è ben chiaro, quando il Rai 1, il TG1 apre con Cucchi, la sentenza Cucchi, è chiaro che diventa l'agenda, un po' è così, un po' è così. Senti, ma invece questi manganelli della polizia nei confronti dei sindacalisti della FIOM, che è una polemica che si trascina dalla settimana scorsa, ma che ancora c'è, ancora cova, no? Ancora cova. Sì, come? Ecco, ma che ti sono sembrati dei manganelli renziani? No, mi sembrano dei manganelli dovuti al fatto che comunque, guarda, è inutile dire, si sta scoprendo un'Italia completamente divisa, si è tenuto nascosta per tanto tempo, e anche questa vittoria di Renzi, così 41%, si pensava che il paese fosse unito, invece questi 4-7 anni di penitenza, che sembrano le piaghe d'Egitto che attraversano l'Italia, le piaghe d'Egitto in Italia, hanno fatto sì che il paese è estremamente diviso, c'è una geografia sociale completamente diversa da un posto all'altro. Ma non c'è stato troppo un'esagerazione su tu che tu lo sai, 3-4 manganellate in piazza, il manganello è anche democratico, ogni tanto democratico. Ma c'è un manganello democratico, però, certo. Ecco, però mi meraviglio di te, tu che sei uno dei re Mita. Nel senso che conosci molto bene i media, tu sai che una parte per il tutto, cioè lì è avvenuto il momento in cui il giorno prima Renzi ha insultato i sindacati, li ha beffeggiati, ha detto io delle cose le decidiamo noi, l'ha maltrattato in quel modo lì, cioè, e quindi tutto poi assume un significato diverso nei media, non c'è mai, come nella giustizia purtroppo, non c'è mai la verità oggettiva, ogni cosa poi assume un altro significato, è come la cosa di Cucchi, come veramente, cioè tutto diventa, si legge in modo particolare, si legge con un paio di occhiali differenti. È chiaro che se tu vai alla Leopolda, dove veramente parlano delle persone incredibili, signor Serra, no, ma non ti sembrava, tu che conosci un po', che non, di essere in quelle riunioni di quei pazzi che fanno nel call center, dicono noi siamo i migliori, vinceremo per farsi coraggio, eccetera. Poi oltretutto, scusami tanto, se al governo e fai i tavoli per discutere le cose, ma è una cosa pazzesca. Sì, questo è vero, questo devo dirlo. Ma scusami tanto, ma devi cambiare strategia, non puoi fare sempre uguale. è una cazzata che ha fatto, dillo almeno una volta che ha fatto una cazzata. No, no, ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata. No, almeno una volta, guarda che io sono diventato, c'è riuscito, non è che sono, Francero, non è che sono così renziano, ma non sono così renziano come pensi, caro. No, ma te lo dico anche perché poi stasera siamo assieme a Tiki Taka, per cui cominciamo a scaldarci un po', ma dai, tu sei al governo e mandi i ministri a fare le leggi e a proporre le cose in un tavolo in cui ognuno dice le sue cazzate, ma ragazzi è una presa in giro, ma lui che è così attento, il signor alla Sensi, comunicazione, sì, ecco, sì. Ma dai, signor Sensi, che c'ha il signor Sensi? Ah, signor Sensi, signor Sensi, sì, quello che sì, lo sappiamo, ma che c'è, signor Sensi? Non c'era Leopoldo, non c'entrava nulla. Ma sì, ma decide, sì, tutto, però, Renzi, adesso con tutto il rispetto per Filippo, ecco, Sensi. Allora Renzi ha fatto una cazzata, su questo le dai atto. Sì, te ne do atto. Una volta, bene, andiamo avanti. Ma Serra, andiamo avanti, Serra, sempre. Come si signor avanti, Serra, sempre. No, il finanziere Serra, ti pare uno che debba può prendere, ecco, la testa? Allora anche qui ti racconto, io siccome sono, sai che io sono uno che analizza le cose al microscopio, ha detto una cosa, ha detto, in una dichiarazione ha detto, pensa che venerdì, quando prima di arrivare in Italia, sì, c'è stato lo sciopero dei controlli, sì, di volo, sì, e i miei due amici invece ha detto, ma basta, io non ne ho più in Italia. Non è vero, ho controllato su internet se c'è stato questo sciopero. Non è vero. A me non risulta. Bugiardo, seconda vittoria. Ma è uno che tu impediresti di, se fossi un dirigente del Partito Democratico, gli impediresti di prendere la tessera, uno come Serra, che c'ha. Nel PD di adesso la pigliano tutti questi qua. Io pare che non la prendano. Scusami. Nel PD di adesso dici sono i benvenuti questi qua. Cioè. Che non la prendono, scusami. Cioè, ma ci manca poco che la prende Verdini, eh? La potrebbe prendere pure Verdini. Verdini, per salvarsi, credo che la prenderà. Per salvarsi, potrebbe prendere la testa del PD. 30 secondi e poi torniamo con Carlo Freccero. Ciao ragazzi. Sì, ci aspetta, dov'è? Fermo, dov'è? Fermo, oh, fermo lì. Aspetta. Siamo sempre con Carlo Freccero, gli voglio chiedere una cosa, ma Renzi esaltato, oggi ho sentito a Santanchè in televisione che non faceva che elogiare Renzi, ieri ha ricevuto gli auguri, insomma, gli auguri, ma insomma gli elogi anche di Squinzi, il presidente di Confindustria, ma che succede? C'è un governo dell'arche intese, mi sembra che sia molto chiaro, adesso non è inutile negarlo. Un governo occulto con Berlusconi, dici tu? Esattamente, mi sembra una cosa molto trasparente, eccetera, cioè finalmente Berlusconi riesce a fare le cose che non è mai riuscito a fare, per cui mi sembra insomma una situazione favorevole, che finalmente Berlusconi ha avuto il figlio che non ha mai avuto, cioè nel senso che ha finalmente qualcuno, il suo erede politico lì, per cui insomma mi sembra tutto a posto. Per di più è parte dal fatto che lui non poteva, Renzi, perché è andato nel PD, perché se fosse stato del PDL l'avrebbero fatto fuori, Berlusconi l'avrebbe, sì, ucciso, sì. E infatti è andato nel PD apposta per emergere, quindi in qualche modo fare lì, mi sembra, cioè, tu dici cosa... è tutto chiaro, dai, ma poi d'altra parte è vero che in questa situazione d'emergenza, ma anche tu che vai da Barbara D'Urso fa parte del grande, del grande bellissimo andato, perché invece mi interessa molto, vedi che sei un asino, Giuseppe, io ti conosco bene, sei un grande asino, cioè, perché io lo sapevo, invece vado proprio a mescolarmi proprio, ma figura, io adoro Barbara D'Urso. No, ma Freccero ha capito che tu gli hai fatto la domandina, sì, è bello che hai detto che sei un asino, perché volevi, come dire, no, cavagli fuori che lui va nella televisione. Beh, scusami, massa, tu hai detto recentemente questo, che i talk sono visti da anziani, tamarri, analfabeti, donne anziane, ecco, bravo. No, fallo tu l'elenco. È per questo che ci vado, perché lì c'è la maggioranza del paese, per cui mi sembra che sia giusto cercare di far emergere qualcosa di diverso. D'altra parte l'argomento che tu non conosci perché tu sei snob e sei radical destra, io figurati, oltre che radical ci sono i radical di sinistra ma anche i radical di destra, tu sei un radicalissimo di destra chic, eccetera eccetera, allora sì, tu sai che i presi 18esimi spiega molto bene l'Italia, che in qualche modo è un'Italia divisa in due, c'è una parte dell'Italia che è come il Sud America, e poi oltretutto mi interessa molto perché il NET è diventato come la TV generalista. Cioè, spiegami questa cosa, cioè, secondo te i talk oggi sono visti da chi? Nell'ordine, facciamo l'elenco. Allora, purtroppo ti spiego, i talk sono visti proprio dal pubblico più intelligente, quello più informato, no? Ho detto quella cosa lì. No, tu hai detto anziani, tamarri. No, ho detto che la TV generalista ha come maggioranza, sì. Se tu leggessi bene le espressioni, porca miseria, ma perché mi devo sempre arrabbiare con te? Ho detto che era la TV generalista, sì. Per i problemi dovuti al fatto che c'è stata l'esplosione del net. C'è stata l'esplosione della radio, c'è stata l'esplosione dei nuovi media, ognuno fa, cioè, i giovani che guardano, non c'è più mediazione, ma non c'è più intermediazione, ma ognuno fa quello che vuole, sì. Allora il pubblico più anziano, sì. Quello più analfabeto è rimasto più bella questa, anziani, tamarri non l'ho capito, perché tamarri, tamarri, gente con le catene, che ne so, il collo, i tatuaggi, è un aggettivo oltretutto di quelli che sono molto alla moda ma che non hanno la cultura, perché hanno un consumo vistoso e non elegante. Posso e le donne così tatuate? Queste donne tatuate sono una categoria molto importante, sono una categoria che bellissime, le donne tatuate. Se tu le vedessi veramente a uomini e donne, capiresti delle cose. Un tatuaggio su certe parti del corpo indica tante cose. Io adoro le donne tatuate. Tu adori le donne tatuate, Carlo? No. Ti piacciono le donne tatuate? Cioè, fare sesso con una donna tatuata da un altro tipo? Guarda, dipende da che ora è ora. Ah, dipende dall'ora, eh. Perché non vuoi vedere, cioè. Allora, guarda, Carlo, io ti dico una cosa: la donna tatuata di solito ha una marcia in più dal punto di vista sessuale. Fatelo dire da me. È vero, ma questo qua è naturale, perché tu sai benissimo che l'animalità è quello che è più legato appunto alla sessualità. Eh sì, perché la donna tatuata, il fatto che metta sul proprio corpo qualche cosa, chiaro, significa che ha un senso, no, molto libero del proprio corpo. Poi oltretutto il tatuaggio è come un vestito, perché tu sei feticista, ti conosco molto bene, perché le tue io sono molto feticista, sì. Me l'hanno detto le tue amanti. Ma come le mie amanti? Ah, questo è interessante, professore. No. Il mondo è piccolo. Però Carlo, perché io non t'ho mai visto insieme a una donna? Mi spieghi perché non t'ho mai visto insieme a una donna? Io sono molto fedele, capisci? Non t'ho mai visto insieme a una signorina. Che è sposato lui. Vabbè, ho capito, sposato, però è sempre un uomo libero, non è che è un uomo. Ma ragazzi, ma dove siamo? Alla Zanzara. Dalla siamo, Duccio, professore. Non siamo a un simposio di critica televisiva. Grande. Comunque mi scrive Francesco Salerni, che è un ascoltatore, sì, che mi manda anche un messaggino con la radio, no, con la foto della radio sintonizzata, capito? La gente è incredibile. Beh, certo, assolutamente. Ma l'amico Salerni. Invece, Nicola Porro, che programma fa secondo te? Lo sai che Nicola è un dindi, è l'unico dindi della televisione, sì. È uno che è molto gentile, devo dire, molto, finge di essere di estrema destra ma se ne frega, sì, molto cinico, molto cinico, sì, proprio è di estrema, finge di essere di destra ma proprio lo fa con la televisione, proprio lo fa con la buzza al naso, eccetera, cerca di fare un po', ha parato qualche regola da Telese, per cui cerca di essere anche un po' bandito, sì. Però è gentile, quindi in qualche modo. E poi è un vero programma di destra, per cui occorre frequentarlo anche lì. Un vero programma di destra. Infatti, stupendo. Renzi ci è andato. Vabbè, Carlo, no? Ci vediamo più tardi. Vai, ti abbraccio. Vabbè, ciao. Ciao ragazzi, mi raccomando, un po' più di forza e di energia. Ma è come? Un ancora di energia. Più. Che tempi. Ormai è tutto degradato. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, Novità da Radio Padania. Novità da Radio Padania, amico mio. Un ascoltatore, senti qui un ascoltatore che dice all'amico Varin, uno dei conduttori preferiti dalla Zanzara, vai a sparare, senti. Barile, prendi il fucile e vai a sparare. Cosa ci fai lì dietro i microfoni? Prendi il fucile e vai a sparare come l'Australia. Io sto già, sparando. Questo è il mio fucile. Spari, spari. Invece dai, ascolta. Il microfono è il mio fucile, caro mio. Certo, sta attento che prima o poi becco anche te. Vai a sparare la gente. E stai attento al culetto, caro mio, perché prima o poi becco anche te. Sempre Varin. Ma io nella mia splendida ignoranza sono ancora qui che mi chiedo: ma se salgono su una nave norvegese e questi clandestini poveri arrivano da guerra, pum pum, sparano tutti, poi vediamo che sono solo meno del 10% quelli che effettivamente arrivano da zone di guerra e hanno diritto all'asilo politico, ma se salgono sulla nave svedese, ma perché cazzo ce ne devono portare in Italia? Basta ciabatante, basta romei, basta albanesi, no, quelli sono comunitari, so cazzi, non ce li togliamo più, prontai. Non ci devono essere corsie preferenziali per nessuno, rom, camminanti, sinti, bianchi, neri, gialli, bergamaschi, terroncelli di Sicilia, niente corsie preferenziali, ok? Allora, c'è una consigliera comunale di un piccolo paese qui in provincia di Milano. Oh, piccolo paese male. Qui in provincia di Milano. Che alle 20.03 diamo questa notizia fondamentale. Beh, dalla settimana scorsa però. Sì, ma è pazzesco. Motta pazzesco. Visconti è il paese, un sì. Paese dove ogni tanto ci sono dei furti. Vabbè, come pare, in tutti i paesi. Pare commessi dalla comunità rom, o comunque da vari rom. La quale ha scritto testuale su Facebook: per i rom ci vorrebbero i forni di casa sua, tra l'altro. Metto a disposizione la mia taverna, se vedete del fumo strano che esce dal tetto, non vi preoccupate. La frase esatta è questa: se tra i cani ci sono razze che vengono più predisposte ad aggredire, perché non ammettiamo che i rom sono più portati a commettere certi reati? Le telecamere servono per punire tutti sti bastardi. Comunque niente gattabuia, ci vorrebbero i forni. Francesco da Milano intanto, Francesco. Sì, Cruciani, ascolta, vai. Tu hai detto prima, parlando della questione della ST di Terni, dicevi, la polizia cosa deve fare? Deve manganellare. No, non ho detto questo, stai tranquillo, non ho detto che la polizia deve manganellare, amico mio. Una banalizzazione di una cosa che poi tu stavi trattando direttamente nell'argomento, sì. Parlando del video di Gazebo di ieri sera. Io del video di Gazebo ho detto bene, semplicemente una cosa. Sì, ma ci sono mille... Scusa, Francesco, io non sopporto la moviola, solo quella del calcio sopporto, perché in realtà sulle situazioni di piazza possiamo prendere mille video e mille situazioni diverse. Beh, comunque, se vuoi, Francesco, analizza questo video, va benissimo. Cioè, caricate. Caricate, allora... E lì te ne esci fuori con la logica del la polizia carica. No, la polizia carica se c'è da caricare, se viene dato un ordine. E chi lo decide quando bisogna caricare o no? E chi lo decide? Visto, chi lo decide visto, se bisogna caricare o no? Lo decidi hai tu? Lo decidi tu? Hai lo decidi tu? Tu hai visto? No, decidilo tu. Hai visto? No, io no. Ti sembrava uno bello, tranquillo, lucido nel momento in cui hai dato quest'ordine? Ah, già stai dicendo che già stai dicendo Francesco, già stai dicendo che chi ha dato l'ordine, è un invasato, Metticelo il pensiero. Vabbè. Prima di parlare liberamente. Francesco, poi va tutto bene, però che ci sia detto un minimo di pensiero. Senti, caricare, la polizia carica, sì, certo. Non è un pensiero, è una banalità. Va bene, banalità benissimo. Che viene assurda a saggezza. Vabbè, del no, non c'è una saggezza. No, Francesco. No, lasciamo perdere. Sì, ma stai tranquillo, fammi parlare adesso. Cruciale. Stai tranquillo e fammi parlare intanto. Fermo lì, perché non è che puoi fare il monologo per tre ore. Allora, la cosa fondamentale è questa. Io non ho detto che la polizia ha fatto bene a caricare. Ho detto che ci sono delle situazioni di contenimento della piazza in cui la polizia può caricare. E quando un poliziotto, un funzionario di polizia dice caricate, non è uno scandalo. Dio ha detto caricate. Semplicemente è nelle funzioni. È nelle funzioni di un dirigente della polizia. Amico mio, non lo sapremo né io né te. Non lo sapremo né io. Francesco, mi fai finire o no? Lo potete togliere un attimo questo. Allora, la cosa fondamentale è questa, che il perché uno dice caricate in quel momento non lo sapremo né io né te, amico mio. È inutile che cerchi una ragione a questa cosa qui. La gestione della piazza non è una cosa che si può scientificamente analizzare. Quando ci sono dei movimenti, a meno che uno non creda che la polizia volesse colpire indiscriminatamente gli operai, andiamo in un altro campo, ma se può esserci stata imperizia da parte di un funzionario nel dare delle manganellate o nell'ordine alla polizia di caricare, ma quando una folla si muove in una direzione, ci sono dei contrasti tra la folla, piccolo o grande che sia, e i poliziotti, nascono dei tafferugli, come è successo questa mattina quando Renzi è andato lì all'incontro con Confindustria. Stessa cosa, stessa logica, certo personaggi diversi, situazioni diverse, ma è la stessa cosa. Cioè, no, confrontalo per esempio con la cosa che succede subito dopo. Guarda come per esempio Landini, adesso senza voler fare partigianismo o cose ideologiche che non me ne frega niente, però guarda come Landini tiene in mano la situazione dopo, nella parte successiva del video. Lì poteva succedere di tutto, guarda come un momento cruciale, esattamente come quello prima del tizio che dice caricate, guarda come viene gestito con tutt'altra leadership, credibilità e con le palle, con Landini che tiene allora, calma Landini alle palle, i poliziotti sono dei incapaci, ma tu estremizza, banalizza, no, se banalizza. Vuoi, stai dicendo quello alle palle e gli altri sono incapaci, benissimo, questo, dai, tranquillo, non dicendo questo, non cercare di cavarti fuori, ma cavarmi fuori d'impaccio da che? Bacca. Ma non devo cavarmi fuori da nulla, amico mio. La manganella non dice niente, dici una banalità, carica è diverso, carica. Sì, manganella, carica, e secondo te con che cosa la fai? La carica con i fiori? No. È allora, diverso. Dire una cosa del genere è una banalità. Va bene, bravo. È una banalità. Bravo, Dario da Milano. Dario, vai. Cruciani, buonasera. Io sono anziano e voglio dire due. Prima voglio fare una domanda a Parenzo, ma lo pagano per le cazzate che dice in proporzione a quanto sempre, dice? Sempre. Beh, fosse così, più come dice, più prende. Fosse così sarei miliardario, per stare nella sua battuta. Anche perché stare dentro la sua battuta. Da Tele Lombardia a fare il divo nazionale. Vedo che ha seguito il mio percorso e la ringrazio perché ha contribuito ad arricchirmi, grazie. Sì, esatto, ma lo so. Vedo che ha seguito il mio percorso. Il mio curriculum vitae. Bravo, grazie. Lo arricchisco, la so. La prenderò come biografo. Esatto, io posso prenderla come biografo? A furia di dir cazzate, io non ho fatto carriera. Lui invece. Beh, insomma, questo esatto, posso darle una mano. Ci vuole del talento anche lì. Esatto, ci vuole del talento anche là. Da Tele Lombardia. Ma mi vuole fare la biografia? Ma non ho capito perché questo sta. Va bene, ma va benissimo. Vabbè, allora forza, invece, avanti. La cosa che volevo dire è probabilmente non ci rendiamo conto che tutto quello che sta succedendo è una specie di guerra fra le persone che vengono fermate dalla polizia e la polizia stessa. Io ho 68 anni, ho fatto le dimostrazioni quando ero studente, mio padre faceva l'operaio, faceva gli scioperi, però io non sono stato né manganellato né mio padre mai è stato picchiato, perché le cose si facevano con un attimo di rispetto. Vabbè, adesso può succedere anche che un poliziotto perda il controllo della piazza, io non lo sto escludendo come cosa. Sì, però i poliziotti è una molla che si carica, perché io davanti, non mi ricordo a Milano in che via, ma la foto di quel ragazzo con la pistola puntata contro la polizia. Ma quello agli anni 70, amico mio, dai. Ho capito, amico mio, è una molla che si carica. Ma a me lo dice, nella gestione di una piazza, non è che i poliziotti potevano sapere che cosa c'era dietro, vedono dei movimenti, ci sarà stato qualcuno che ha detto caricati, io non ci trovo nulla, ma veramente nulla di scandaloso, continuo a pensare dopo giorni e giorni che non ci trovo niente di scandaloso, è partita qualche manganellata, una forse, una di troppo, ma nella gestione della piazza, con la folla che si muove, a meno che uno non pensi che quelli volevano manganellare apposta gli operai, cosa che è da escludere al 100%, allora è logica di piazza, punto. Quelli della polizia. polizia che sono in prima linea e le danno, e quelli della manifestazione che stanno in prima linea per darle, per prendere. Vabbè, in quel caso non c'erano, pare che non ci fossero dei criminali tra questi della Fiom, dai, su questi di Terni non è che erano però quando poi c'è la piazza che si muove, i poliziotti non è che dicono però dobbiamo pensare che ci sono che questi qua sono degli operai, non sono quelli dei centri sociali. Quando vedono la piazza che si muove, quando sono lì rischiano anche di prenderle. Prima di mandarvi uno straordinario Tipi da Zanzara, rubrica da me realizzata, è ideata, voglio farvi ascoltare alcune cose dette dal neo candidato alle primarie, poi non si sa bene se le primarie ci saranno, per la presidenza della Regione Veneto, Alessandra Moretti del Partito Democratico. Alessandra Moretti, caro Parenzo, è una eurodeputata e fino a un anno e mezzo prima fa è stato parlamentare. Esatto, fino a un anno e mezzo fa è stata deputata della Repubblica in quota Bersani. Ora uno non ci si deve stupire se No, in quota, era la portavoce del comitato in Bersani, possiamo dire in quota Bersani, sì, di quota più, Bersani. Molto di più. Allora, era bersaniana di ferro ed è diventata renziana di ferro. Beh, però, diciamolo, però, ma è chiaro, è così. Ma ho capito, è così. Anche tu una volta eri una brava persona e ora no. Ma che vuol dire? Ma non dire stronzate, dai. Sì, la vita si cambia, però si può dire che è stata bersaniana di ferro. Sì, si può dire. Tra le più forti avversarie di Renzi, e dopo è diventata renziana. Beh, si può dire che anche Civati era il fondatore della Leopolda e poi è stato il più acerrimo nemico di Renzi. Ma adesso lascia perdere Civati. No, ma per dire come in politica. No, ma per dire come in politica spesso è uno dei casi più clamorosi. D'accordo. Di paraculismo in politica, diciamo. Beh, la verità. Beh, ragazzo mio, le cose vanno dette come vanno dette, non è che vanno dette. Mio. Non è che vanno dette. È dalle medie che non mi chiamavano. Ma no, ragazzo mio, non è nel senso dispregiativo. No, lo so. Ma è così, le cose vanno dette. Se poi uno non le vuole dire perché deve stare attento, io non sto attento. È uno dei casi più clamorosi di paraculismo in politica. Cioè, c'è. Ma una PD che tutti sono in molti, in massa. Ma scusami, però questo caso qui è abbastanza clamoroso, però. Sì, ma tu non ricordi. Lo riconosci abbastanza clamoroso o no questo caso? Ma non è il suo solo, cioè del PD sono passati tutti dal Giaguaro da smacchiare. Non c'è, bravo, sì, non c'è dubbio. Questo è un dato però, di fatto. Però questo caso è la uno direzione che mise in minoranza Letta. Sì, però non è un quisque de populo, non è una deputata qualsiasi, è stata, come dire, adesso portata, fu portata per esempio come esempio del PD alle europee. Sentiamo cosa dice di Europa, perché qui c'è il doppio passaggio, triplo passaggio da parlamentare italiano, parlamentare europeo, candidato barra, se vincerà le elezioni, governatore del Veneto. L'Europa? Ma chi se ne fotte? Sono stato eletto lì a Strasburgo, a Bruxelles, e sentite cosa diceva dell'Europa la signora Moretti. Allora vede, qua vede però com'è importante l'Europa e chi mandiamo in Europa. Cioè, se vogliamo mandare dei buffoni di chi ci va a vergognare, vabbè, questa è una scelta. Ma siccome i fondi strutturali sono essenziali per lo sviluppo tecnologico, innovativo, le infrastrutture. E con quel buffoni si rivolgeva ai 5 Stelle, eh? Si rivolgeva ai 5 Stelle. Cioè, se vogliamo mandare dei buffoni, vabbè, no, in questo caso ai 5 Stelle. Io mi riferisco a Bonanno. Vabbè, se vogliamo mandare dei buffoni, dice la Moretti, eccetera, è perché l'Europa è importante, i fondi strutturali. Ma ragazzi, ma ancora vi bevete queste cazzate? Sono tutte cazzate quelle che vi raccontano. Non gliene frega una minchia di queste cose qua, niente, nemmeno una virgola. Gli interessa solo unicamente della propria ambizione personale. Il resto è nulla. Quello che vi raccontano quando fanno queste prediche sono tutte minchiate. Moretti, ancora. Quando Matteo Renzi dice che in Europa devono andare i migliori, beh, insomma, questa cosa mi gratifica. Adesso, per carità, non è che ce l'ho solo con la Moretti, ma il caso è clamoroso. Non vi fate abbindolare da queste cose qui. È stata votata da un sacco di gente, decine e decine di migliaia di persone. Questi qua come si devono sentire se dopo questa qua se ne sbatte i coglioni e dopo qualche mese di Parlamento europeo in cui i fondi strutturali erano fondamentali vai a fare il candidato governatore in Veneto? Sì. Come no, si devono sentire queste persone? Sta, Cruciani, in Veneto, dai, ve lo dico. La polemica ci sta. Piccola differenza è che lei alle europee è stata, ha preso le preferenze, c'è qualcuno l'ha scritto. Ma alle regionali. Peggio! Peggio! No, ma peggio! Aspetta. Alle regionali, mettendoci la faccia e le persone dovendo mettere una croce sul nome Moretti, sì, certo, qualora devono fosse, votare, che c'è, però là, è sempre una libera scelta. C'è il partito dietro, dai, su. Beh, ho capito, sai però benissimo se che è così. C'è il partito dietro, ma la gente non è che ormai è tutta. Ma il no, partito io non dice sto una dicendo cosa niente, e io tutti sto fanno dicendo. Buu, ma no, per carità, poi devi essere votato. Lei si presenterà anche con questo curriculum di una che ha cambiato tre volte, diciamo, istituzione. Va benissimo, per carità, la gente giudicherà e se la gente se ne fotterà di questa cosa non la voterà e la voterà lo stesso, per cui il punto non è, le persone sono libere ormai, non è che c'è il partito che decide, ma assolutamente, cioè. Io non sto dicendo che io sto dicendo semplicemente che non vi fate abbindolare dalle parole, l'Europa è fondamentale, mi candidi in Europa perché è fondamentale, te candidi in Europa perché Renzi ti ha chiesto di candidarti in Europa. Traffico, dai. Traffico veicolare. Fai muovere la tua impresa. Scegli Pantera, l'IRP col TH. Vi presenta Strade in diretta. Sulla diramazione Roma Sud si rimane in coda per un incidente fra Torre Nova e il Grande Raccordo in direzione della capitale. C'è un incidente anche intorno a Milano, code sul raccordo della tangenziale est tra l'Autosole e Piazzale Corvetto in direzione della città. Siamo ora sulla 10, Genova Ventimiglia, rallentamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Si viaggia su carreggiata ridotta per un incidente avvenuto in giornata. Maltempo in agguato, in particolare sulle regioni di nord-ovest, allerta della Protezione Civile su Piemonte e Liguria. Massima prudenza a chi si trova in viaggio. È tutto, noi torniamo tra un'ora. La Zanzara. Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Che perde il lavoro. Riccardo da Torino, Riccardo da Torino. Va bene, abbiamo capito. Riccardo, vai. Finto intellettuale di sinistra, che è un finto intellettuale di sinistra, che mi deve spiegare cosa ha fatto negli ultimi 10-15 anni la CGIL, che ha mandato questo paese nella merda. Sì. Nella merda, se tutti gli imprenditori scappano, si deve chiedere perché lo fanno. Bravo, bravo. Okay. Questi sono fatti. Questi sono i sindacati in Italia, ma che sono mandato dal culo. Dal culo siamo, un paese finito. Le vere manganellate. Sono questi intellettuali di sinistra, come Lorenzo, che difendono ancora. Quattro manganellate che non esistono, strumentalizzazione dei giornali. Che non esistono, bravo. Quell'idea di sinistra di merda che abbiamo in Italia. Comunque. Tu sei un sinistroide del cazzo. E quando parli così alla radio, questo paese andrà sempre più nella merda. Se qualcuno ha sbagliato la polizia deve anche pagare. Io ti sto parlando di altre cose, di una manifestazione anacronistica in questo momento, che non esiste in un paese, che è già dal culo. Ma dove era la Camusso quando le aziende chiudevano tutte? Ma dove cazzo era? Quando a Torino, alla Thyssen, sono morti, bruciati vivi quei poveri ragazzi? Dove era il sindacato a tutelare il posto di lavoro e la qualità del lavoro? Dove era? Ma lei è scemo in testa proprio. Allora, io sono scemo. Ti fanno parlare anche alla radio. Imbecille, e questa idea è colpa di sai qual è il problema? Il problema è un imbecille, non hai mai fatto azienda. Tipi da Zanzara. Allora andiamo con Matteo Savona. Matteo. Pronti, eccoci, buonasera. Vai. Ciao Parenzo, velocissimo. Prima di tutto complimenti, bravi, belli e bastardi però anche. Vai, forza. Sola, riferito appunto al caso Q, che adesso non voglio fare chissà quale tiritera e via dicendo. Da te c'ero rimasto male riferito al discorso quello della FIOM, come cioè prendere le parti a prescindere della polizia, ma adesso tralasciamo. Io non questo. Ho preso le parti della polizia, io ma ho detto che erano quattro manganellate e basta, su, dai. Sì, ma su cui hanno fatto un caso politico, un caso politico pazzesco. Se non c'era Landini in quella manifestazione, non succedeva nulla. Cioè, non succedeva nulla dal punto di vista politico, non è che non succedeva niente. Sì, dimmi, dai. No, una cosa sola, per quanto riguarda questo discorso di Cucchi, nel senso, il discorso è: perché nessuno deve pagare? È quella la cosa vergognosa, è quella la cosa. Come ha detto lo stesso procuratore capo, e come avete adesso detto... vedremo quali saranno le cose. Tutti quanti diciamo sempre aspettare, bisogna aspettare le sentenze. Vediamo le motivazioni della sentenza di assoluzione. Ma vedremo, poi, ad esempio, no? Questo... vedremo le motivazioni. Tutti parlano, nessuno ha letto, perché non ci sono le motivazioni della sentenza di secondo grado. Aspettiamo le motivazioni della sentenza di secondo grado. Leggeremo i dettagli delle motivazioni della sentenza di secondo grado. Il giudice ha parlato di insufficienza di prove per ora, ma non esiste più, come sai, insufficienza di prove, diciamo semplificato così, la vecchia insufficienza di prove. Vabbè, ma vedremo delle motivazioni. Siete lì sempre ad aspettare le sentenze, le decisioni dei giudici. Adesso che c'è una decisione di secondo grado di assoluzione di tutti gli imputati, aspettiamo le cose invece di dire è stato ammazzato dallo Stato. Per carità, sono il primo ad alzare le mani a riconoscere se uno è stato ammazzato dallo Stato. Se qualcuno l'ha ucciso, sì, d'accordo, ma ci sono anche delle cause mediche, vediamo quello che è successo, ci sono mille motivi per cui uno può essere morto. Io non lo so perché non ho analizzato le cose nel dettaglio, nessuno lo ha fatto. Vedremo le motivazioni di chi invece ha letto veramente le carte, le motivazioni della sentenza di appello, e poi giudicheremo. Beh, amico mio. Ho conosciuto un personaggio nel weekend. Ma tu ti immagini Squinzi in questo momento, dopo aver incontrato Renzi, una bella giornata, sta Brescia, tornando a casa con la mamma, è in macchina, e dice ciao, Squinzi, parla con Squinzi, la moglie, sì, non lo so, con i parenti, con gli amici, oppure chiama, dice chiama Napoletano, ciao direttore, allora hai visto, è andato tutto bene. Vediamo cosa fa la mia radio, no? Accende Radio 24, sì, e sente. No, perché ho incontrato nel personaggio nel weekend un personaggio straordinario. Straordinario. Perché tutti tu questi? No, perché? Ma perché no, mi innamoro, ma già dalla musica io ho capito. Perché cioè... mi innamoro di queste persone alla fine. No, mi innamoro ma di queste non persone. Non incontri mai degli intellettuali. Allora, mi ha dato il biglietto da visita in cui c'è scritto: c'è cioè, la foto del Duce di Mussolini. Accanto la sua foto, che sembrano uguali, pelati tutti e due. Pelati, eccoli qua. Con scritto terzo millennio sempre fedele. Con il tricolore con l'aquila fascista, la decima mas, e dietro c'è scritto 2015 Veschini da Perugia, eccetera eccetera. L'uomo si chiama Alessandro, se non sbaglio, Alessandro Veschini. Ciao Alessandro, come stai? Buonasera, un pochino raffreddato ma bene. Come andiamo? Benissimo. Allora mi hai riconosciuto, maledetto, mi hanno detto. E come no? Testa di cazzo, maledetto. Di fare diciamo tutte quelle scene. Basta che dice senti Alessandro, va benissimo, nessun problema. Ma no, ma mica volevo fare scene. Io non mica mi presento, sono Giuseppe Cruciani, eccetera. Allora. Stavo lì, ho sentito un po' di cose che hai detto, mi sei piaciuto come personaggio ed eccoci qui, assolutamente. Perché dove eri domenica? Ero alla fiera che si chiama Militaria. Militare, dove il signor Veschini ha un Veschini per carità, Veschini. Che è detto, se tu vai a Perugia e dicono e dici Veschini, nessuno sa chi è. Se dici com'è la storia Veschini, lasciamo perdere. No, come lasciamo perdere? Se dicono il fascista, dici ah sì, è quello là a Ponte San Giovanni, eccetera eccetera. Lo conoscono tutti. Perché signor Veschini ha il coraggio di dire sono fascista, diciamo la verità, signor Veschini. Oh, sì, beh, sì, non è un coraggio, diciamo, è un punto di vista, diciamo, di una persona corretta. Ma il punto di vista è calmo, comunque Alessandro Veschini, i fascisti. In realtà che cosa fa signor Veschini? Rispetto alle persone, però lo dirigino comunque non era male. Signor Veschini, comunque andiamo avanti, dai. Vende souvenir e materiale del ventennio. Molto bene, anche. Souvenir e materiale del ventennio. Anche, la cosa straordinaria che ho visto nel banchetto del signor Veschini è che ma che gente, vabbè, andiamo pure avanti con la svastica nazista. Ma uno si può chiedere che cazzo cazzo di gente frequenti tu la domenica? La gente normale va al parco con le bambine, oppure va alle giostre, o leggi un libro a casa davanti al caminetto. Lui no! E poi dicono che sono matto io. Lui no! No, lui va al festival di sta cazzo da Velletri di gente che vende robe militari, incontra un signore con la testa pelata che dice di essere un fascista e poi lo invita pure alla radio. Ma certo. Che vita c'hai te? No. Ma che vita hai? No, chiedo scusa, dimmi, se sono un attimo. Dimmi, chiedo scusa. È schizzato sto cristiano? È schizzato un po'. No, schizzato. Sto cristiano, intanto cristiano, c'ho due errori. Uno. È ebreo. Due è ebreo. Errori, esatto, primo. Sono problemi suoi. No, problemi, lo sapevo. Allora, tre errori. Lei ha già commesso in pochi secondi. È molto ebreo. Senti un po', ma mi devi spiegare il motivo per cui nel banchetto, accanto a tutti i souvenir, tra cui un manganello scritto Dux Mussolini sopra. Sì. Vero, qual è la cosa che si vende di più, Peschini? Allora, si vende tutto e non si vende nulla. Non è che c'è un supermercato che andiamo a prendere la cioccolata o la mortadella. Beh, no, quello diciamo, no. Ecco, è un qualcosa che una persona, diciamo, che gli piace un po' la storia, che gli piace un po' la realtà, non diciamo tutte queste buffonate che dicono tutti i giorni per televisione, diciamo si può fermare al banco e diciamo, acquistano magari un calendario. Sì, ma qual è il prodotto più venduto? Il prodotto più venduto potrebbe essere il manganello? No, le magliette, diciamo, con l'effigie del duce, col duce sopra. Col duce o con le scritte, oppure diciamo le spillette dei vari battaglioni, diciamo, ma comunque aveva una beh, storia non è politica, dai, è anche politica, dai, non è solo storia. Vendi pure il manganello con scritto Dux Mussolini. Sì, vorrei vedere un corno. Ma scusa, Peschini, tanto questi signori, diciamo, i manganelli ce li regalano tutti i giorni, diciamo, tutti belli incartati che non ci fanno male. Ecco. E invece tu vendi quelli veri, diciamo, di manganelli. No, non si ricordi che non esiste il manganello, non è mai esistito. Come no? Il manganello esiste nello Stato americano, è quello della polizia. Vabbè, diciamo che nel fascismo c'era un po' di violenza, dai. Sì, o no? C'era, sì, è come la violenza di oggi. I violenti di ieri sono i violenti di oggi. La Cruciani è un'icona frusciona ora, lo sa? Oh, ragazzi, a proposito di froci e checche, perché qualcuno usa ancora la parola checca, Parenzo, ti faccio ascoltare un allenatore di calcio che si chiama Ezio Capuano, un allenatore di calcio dell'Arezzo, Lega Pro, dunque divisioni, diciamo, Serie C, eccetera, eccetera, C2, adesso non so, c'è stata una riforma dei campionati, non mi ricordo che cosa corrisponde. Ezio Capuano, il quale ha perso 1-0 al 90esimo, e senti come chiama i suoi giocatori. Prendere gol in superiorità numerica al 90esimo è vergognoso, quindi non lo accetto, avrei perso in maniera diversa, non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle. In campo le checche non vanno bene, devono andare gli uomini con le palle. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Questa ragazza, no? Così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Problemi loro. In campo non voglio checche. Tu che faresti? Io non farei granché. Però tu magari una denunciata gliela faresti a questo Capuano. Che dici, Parenzo? Non hai neanche bisogno di chiedermelo. Cioè va denunciato perché non ha detto neanche ma proprio a subito. Cioè va denunciato perché ha detto. Ma insomma, ragazzi miei, ma facciamoci a capire, no? Come c'è diceva uno Di Pietro. Che dice in campo non voglio che va denunciato. Facciamo a capirci. Il calcio, come abbiamo detto tante volte, è un grande aggregatore di persone. Ma ha di detto mondi, in campo eccetera. Non voglio che ha sbagliato espressione, voleva dire in campo non voglio rammolliti. Ha sbagliato espressione. Identificando c'è una responsabilità. Adesso dico una cosa che ti farà imbestire. Lo sport ha un ruolo sociale. Mamma mia. Mamma mia, allora, ruolo sociale. No. Abbiamo Beh, bene, no. Torniamo dal fascista che vende manganelli. Allora, ma non vende solo manganelli, no. Veschini, cosa amico vende mio, olio di ricino, tu. Cosa vende anche? Mi sto ascoltando. Olio che di dici ricino tu, vende. Si può usare la parola checca? Figurati. Sì, sì. Certo, beh, l'ha detto un fascista. Tu però, come, cioè... come li chiami tu? Come li chiami fascisti? Come li chiami i froci direttamente? Ma è fascista, però ma parlato con ma un che fascista. C'entra i fascisti? Che c'erano un sacco di froci pure durante il fascismo, che mica no. No, Che pensi tu degli omosessuali? Si possono sposare, Veschini? Ma non... ma perché voglio far sposare? Che ne so, Veschini? Perché? Perché? Che ne so? Diglielo tu. Secondo te che bisogna fare con i gay? Con i gay? Noi la medicina ce l'avremmo anche avuta. E qual era? Qual era? Olio di ricino. Non so immaginare. No, ma dillo, vabbè, ma adesso che fai? Te la fai sotto? No. Che ti viene? La merdina nelle mutande? Dai. No, la merdina nelle mutande non la teniamo, quella la facciamo mangiare a loro. Le checche, diciamo, mettiamole in un recinto, sì. E sono checche, e facciamo fare checche su un recinto. Le eliminiamo, le mettiamole da una parte, non possono stare in mezzo al popolo questo. Perché quello pazzesco. Rovinano il popolo. Ah, rovinano il popolo, in che senso rovinano il popolo? Scusa, Veschi. Ma come quando diciamo te stai vicino a una persona, sì. Che fa tutte le manuine diciamo di una bella donna, sì. Invece una checca o un frocio, ma lascio il fa, ma non avvenne fuoco. Come fuoco? Bisogna dare fuoco. Ma è poco. Ma che ci facciamo? Che fra di loro ci sono anche persone brave. Per carità. Che lo dimostrano. Ma quelli che spudieratamente se vogliono mettere in mostra, sì. Io sono. Dammogli fuoco. Dammi fuoco, dai. E gli extracomunitari, pazzesco. Che arrivano in Italia con i barconi? Io quelle persone gli avrei messi vicino al muro. Con idrante l'avrei lavati, sì. Una tuta, sì. E un piatto, un pasto caldo, sì. E poi gli avrei detto, forza, tornate a casa. Ah, così. Vabbè, questo, sì. Cioè, pure la Lega lo dice questo qua, pure. Beh, la Lega... fascista, pazzo. Pure la Lega, diciamo... E se scappano? Se scappano? Se scappano? E tiriamo come i piccioni, no? Quando scappano via. Ah, così, buff, sì. con la cosa. Vabbè, allora, questo è pazzo. Può fornire le sue generalità, per cortesia. Vorrei vedere voi, che dici? Generalità, voi. Vorrei vedere voi, sì. Quando vedete una persona di 80-85 anni a piangere come un ragazzino, che questi quattro delinquenti gli hanno sbudellato casa, sì. Cosa ne pensate? Io non ho capito, tutti questi puritani, no? Poverini, ma perché non se le portano a casa? Chi dice? Quelli che vogliono l'accoglienza. Ha presente il delitto che è avvenuto a Perugia, no? Ha presente il delitto che è venuto a Perugia? Sì. Ecco, chi l'ha fatto quel delitto lì? Chi l'ha fatto? Extracomunitari oppure altre persone? Vabbè, ma guarda... sì, Veschini, senta, chi l'ha fatto? Fascista, amico mio, mi dà le generalità, dai, festa finita. Vabbè. Alessandro Veschini, forza, generalità. Allora, Veschini, scusa un attimo, dai. Io dico una cosa, no? Ma tu sei stato comunista, mi hai raccontato, sei stato comunista... Dai, da giovane, poi sì. Sei diventato... In Umbria nascono tutti di sinistra. Poi hai, diciamo, ci hai ripensato e sei... No, ma... non ci ho ripensato, perché mica io ripenso e vado... Basta un pochino di cultura, un po' di intelligenza, sì. Leggere qualcosa, diciamo, di storia, non quella che ti insegnano questi quattro partigiani che si è fatti. È facile fare il comunista col Ferrari, è troppo facile. Ma senti, ma Stalin, che ne pensi di Stalin? Ma potrebbe essere stato un santo. Perché dici un santo? Un santo, è la storia che lo dici. 86 milioni l'ha fatti fuori, perciò se non era un santo lui, chi era un santo? Ma perché 86 milioni? Ha fatto fuori 86 milioni tra chi? Cioè, senti, questo lo riportano i libri di storia, non lo dico io. E chi ha ammazzato? Chi ha ammazzato? Sono un povero ignorante. Chi ha ammazzato? Scusa, Veschi. Chi ha ammazzato? Non andiamo sul particolare, chi vuole capire capisce, dai. Ma no, ma non capiamo niente, noi siamo poveri così, cioè, ma siamo umili. No, siete persone molto intelligenti. Ma perché se si è ammazzato 86 milioni, perché deve essere un santo, scusa? Dipende chi ha ammazzato poi, no? Apposta per quello, perché ha ammazzato gente, diciamo, vanno a criticare diciamo, gli altri che magari hanno avuto la sfortuna, sì. Di non capire e di aver fatto magari qualche sciocchezza, avere, diciamo... ammazzare una persona e se ne è fatto di stracci e legacci. Ma che Stalin ammazza tutti quelli e se ne parla? Ma basta, no? Ma sti compagni, ma dove sono? Ma buttiamoli dentro il Tevere. Buttiamoli dentro il Tevere, sì, ma che ci frega. Questo succede da quando Basaglia, perché Basaglia è stato anche un grande, ma tu dici, gli effetti collaterali. Cioè, stai dando del pazzo al signor Beschini? Non è che sto dando, semplicemente. Sto proclamando. Ad alta voce che la chiusura di strutture sanitarie idonee provoca il fatto che persone così sono in libertà. Ma signor Beschini è un grande collezionista di cimeli del ventennio, e vende liberamente cimeli del ventennio. Ma dimmi una cosa, scusa, dimmi. Ma sto signore nella sua vita privata, ma cosa ha fatto di concreto, di reale per questa nostra società? Ha sfruttato solo il popolo e le sue spalle degli altri. Ma chi si crede di essere questo? Ma chi dici? Porta la cravatta? Ma dagli una vanga e piccone e manda la stampa alla terra. Dopo si accorgerà cosa vuol dire. Sta parlando di te, credo. Ce l'ha con me, non porto la cravatta, però. No, pensavo non che ce l'avessi. Porto la cravatta. Pensavo però che ce l'avessi con lui perché era ebreo, ma non lo so. No. Ah, me ne guarderei, guarda. Vabbè, diciamo che non è che li ami gli ebrei tu, Veschi. Io li rispetto, la persona, sia chiaro. Sì, però io rispetto le persone, perché io nella mia attività io ho avuto una pregnameria, ho avuto dipendenti neri, albanesi, marocchini, gente da rispettare. Però vuol dire il delinquente, la persona che non però gli ebrei non ti piacciono, diciamo la verità. Gli ebrei in generale non ti piacciono. Ma l'ebreo è una persona come l'altra. Allora, l'ebreo c'è, l'ebreo intelligente, l'ebreo capisce, diciamo che incapisce, come l'italiano. Ma invece i rom invece? I rom? Con i rom, Che dici? Ma che i rom, l'ho detto prima, no? Quando andiamo a trovare, che mi vengono a chiamare Alessandro, sia gentile, mi venga a mettere a posto la finestra o la porta. Sì. E vedi magari una persona sola dentro a casa, che hanno rovinato tutto, te lo posso giurare sopra le mie creature, che più di una volta ho messo le mani nel mio portafoglio e gli ho lasciato qualcosa, non a tutte, perché... Beh, allora, costi rom, che dobbiamo fare con i campi rom? Chi rom, diciamo quelli da eliminare, la casa, io gliela darei sotto un ponte quando è piena. Come sotto un ponte quando è piena, Veschi. Ma mi hanno detto che tu hai fatto la campagna elettorale pure per Borghezio, sbaglio o no? È un grande amico, una persona da rispettare. Una persona che quando ti parla ti guarda sugli occhi, non distoglie lo sguardo come il vostro presidente del consiglio, che mi sembra Porellino, pure a me. Vabbè, ma scusami un attimo, ma quanti voti hai portato a Borghezio tu? Non lo so. Io, diciamo, i miei colleghi, l'avvocato, abbiamo parlato, vi siete mossi, quanti voti? 200-300 voti gli avete portati o no? Ma io penso qualcosa di più o qualcosa di meno. Adesso le volte uno dice io sì, io do, e poi dopo alla fine non ha dato nulla. Quello, diciamo, sto soltanto però che... avete supportato la campagna elettorale di Borghezio, sì, dai. Sì. E diciamo orgogliosi, perché è una persona che quando deve dire qualcosa lo dice sul viso, non parla dietro le spalle come sti compagnucci. Vabbè, ciao Veschini, a presto. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao Veschini. Ciao. Prenda la medicina, Problemi loro, sono froci, problemi loro. Allora ragazzi, andiamo con Vitaliano Torino. Vitaliano, vai. Oh. Vai, dimmi. Allora, ciao, io sono Vitaliano Torino, sono stato un utente del mondo carcerario in modo passivo, chiaramente, nel senso che sono stato carcerato. Era un detenuto. Esatto, bravo. Saluto il buon David, che è una persona che stimo, perché è insultato da tutti. Comunque, volevo dire, secondo me le persone come il povero Cucchi all'interno del carcere non c'è personale in grado di gestire, perché sono persone molto problematiche. Vabbè, ma che vuoi dire, scusami, Vitalia, adesso... Perché, te lo dico subito, perché quando entrano danno via di testa. Ci dovrebbe essere una struttura che diceva che sappia che... Ma tu hai subito qualche cosa quando eri in carcere? No, io ho subito perché nel sistema carcerario si danno botte come si dà la colazione. Ma chi ti ha picchiato, scusami? Un gruppo di agenti perché non ero un tipo molto gestibile io. In che senso non eri gestibile? No, per ragioni di droga, perché ero insomma. Beh, ho capito, amico mio, però se tu davi di matto, eccetera, quelli ti hanno voluto un po' calmare, ti hanno dato due schiaffi. Non so che è successo concretamente. No, due schiaffi sono un'altra cosa, no. Cioè, ti facevi di eroina? Ma quando mai? Io non ho mai toccato la droga, compa. Allora, per ragioni di droga, hai detto che spacciavi, che facevi? No, io non sono stato in carcere per ragioni di droga. Sono stato in carcere per ragioni diverse. Però, voglio dire, i drogati sono gestiti malamente, arrivano in carcere con le loro fisse, le loro carenze, e allora la guardia di turno che si rompe le palle sentirlo chiamare guardia, vanno, va alla squadretta, ci fica quattro bastonate e c'è gente che sta alla mattina, qualcuno lo trova morto, ogni tanto succede anche quello. Vabbè, Luca da Firenze. Va bene, questa è una testimonianza pazzesca, importante. Già il medico di prima. Pronto? Sì, dimmi Luca. Sì, sono Luca da Firenze. Io volevo portare una mia testimonianza per il caso Cucchi, non che lo conosca, ma mia personale, perché ha parlato prima un rappresentante sindacale del sistema carcerario e sembrava negasse che potessero avvenire degli atti di forza da parte della polizia. Beh, certo, quello là dice non è stato commesso nessun pestaggio, non è stato fatto nessun pestaggio, eccetera. Allora? No, ma l'ho subito io. L'ha subito lei, adesso spuntano fuori come funghi tutti quelli che hanno subito pestaggi in carcere. Per carità, sarà vero Luca, che tipo di pestaggi? Vede, io non andavo in escandescenze e non ero, sono 1,70 m, peso 60 kg, quindi difficilmente. Ma perché l'hanno picchiata? Perché l'hanno picchiata? Una squadra di agenti penitenziari. Perché ti io hanno picchiato? In carcere, arrestato perché non volevo lasciare un domicilio, perché ero sotto sedativi medici. È rientrato un familiare che ha detto ragazzi dobbiamo chiudere, guarda Luca scusami, non ti voglio interrompere, lo so, però non abbiamo più tempo, ti richiamo domani, non ti preoccupare, così mi racconti bene quello che ti è successo. Eri sotto sedativi, sei entrato in carcere, poi racconti, almeno qui c'ho scritto, ha preso un sacco di botte gratuite in carcere. Ci sentiamo domani 18:30, ragazzi, ciao. Non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.